C'è una strada chiamata destino che porta in collina. C'è sur colle una casa argentata dal chiaro de luna. Chi va in cerca d'amore ci trova una fata divina. Che signora del bene e del male si chiama Fortuna. Bella di simpianto, tu che fai tante grazie una soltanto, dammi l'amore d'una pupa bruna. Quella porta mai chiusa la porta, signora Fortuna, oh signora Fortuna. E c'avevo una bella casetta de sogni e d'amore, e c'avevo un amore de pupa dall'occhi de mare. Ma una sferza de vento ha distrutto la casa e sto core. T'ho pregato, signora Fortuna, davanti all'altare. Bella, se me vai bene, falla tu racchi amore dalle pene. Non c'ho più amore, non c'ho più nessuna. N'altra volta mai chiuso la porta, signora Fortuna, oh signora Fortuna. Ma stanotte guidato dal cuore da un razzo de luna, ho ripreso la strada più antica che sempre più buona. C'era un'ombra tremante, la chioma più bianca che bruna, e m'ha detto in un bacio, so mamma che mai t'abbandona. Mamma, fortuna mia, questa è la maggior grazia che ci sia, perché de mamma ce n'è solo una. Questa porta poi chiude la porta, signora Fortuna, oh signora